Vabbè, pochi siamo. Prima certo ci dovevano bisticciare, ma c'erano tante cose belle. Prima c'erano ruote da 20-30 persone, dovevi stare mezz'ora aspettando che ti facessero entrare. E c'era anche un'altra categoria di persone che ci sta sfuggendo. C'erano i portantisti di professione, quelli che mettevano solo la portante. Quelli erano un divertimento, eravamo sguattugiati, ma io ti dico la verità, mi ha fatto piacere entrare, ho salutato un paio di amici, uno in particolare ho fatto il tempo a salutarlo e non c'è più, perché poi ti fa piacere, peccato però, peccato perché vabbè, l'arrivo del computer, dei telefonini ha rovinato tutto, però secondo me pubblicizzando e portando a conoscenza, secondo me si può tentare di fare qualcosa, perché poi questo ordigno maledetto, noi comunque a questo affare qua ci siamo affezionati, anche io sono entrato dopo tanti anni, ma solo perché ho trovato degli amici e mi hanno detto guarda che per questa c'è gente, ci sono rimasto anche male, ho detto ma ancora esiste la frequenza. E beh, qualche anno è passato. E quello è malumore mio, sono diventato vecchio nel frattempo. Comunque, io di tanto in tanto entro, vediamo un po'. Stasera per sentirvi, per sentire bene un po' a te, ma a te già un po' già ti sento. C'è anche il mio vicino di casa ogni tanto, Franco, che entra e sparisce. Quello lì è uno di quelli, lo stesso fantasmi. Quelli sono sempre all'ascolto. E sono sicuro che ci sono tanti amici all'ascolto. Anche qualche radioamatore che abbiamo frequentato tempo addietro, ma ascoltano e non entrano. Vabbè, comunque, quelle sono decisioni di ognuno di noi, per la sua decisione. Vabbè, vediamo se è arrivato qualcuno. Ciao Franco, sei entrato? No, ancora no. Sì, e beh, certo, Bruno, in effetti è così. Oggi c'è qualche deficiente che ogni tanto le viene la mania di mettere la portante, l'avrai notato anche tu probabilmente, tu hai avuto la scarsissima intelligenza di passare in banda laterale a disturbare, a parlare, e dunque abbiamo capito perfettamente quale imbecille di persona adulta è, però cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare questa gente? Prendere la cifra contro loro e basta, non se ne parla più, tanto è inutile stare lì. Una volta si diceva, e lo mette piccato, e va a Ubizzoni. Cosa vorrebbe dire? È come battere su un incudine, no? Tu a una persona glielo puoi dire, glielo puoi cercare di farglielo capire, ma loro sono talmente duri di mente, di comprendonio, che a un certo momento non bel rimedio. Sono nati così, per dare fastidio e basta, convinti di fare chissà che cosa poi, soprattutto convinti di prendersi qualche soddisfazione da imbecille, basta, sono lì. Purtroppo è così, Bru, ma tiriamo avanti finché è possibile. Da quasi 50 anni a questa parte, avevo 30 anni quando ho cominciato, da 79, fatelo conto, 49 anni lì, e un paio di mesi anche di frequenza, e non è poco mi sembra. E continuiamo ad esserci, nonostante tutte le avversità che si sono anche sentite, tra l'altro, in aria, purtroppo è così. Prima il sesso femminile era bene affollato in frequenza, c'era tantissima gente, oggi tutti spariti, tutti quanti, perché a causa soprattutto di questi atteggiamenti così da deficienti, purtroppo anche quello ha comportato una selezione molto ma molto grande. Va bene, avanti Blu. Okay. Vabbè. Peccato però, perché secondo me ci saremmo potuti divertire, perché a quei tempi qualcosa l'abbiamo fatta, abbiamo avuto il club, organizzavamo feste, ma di lusso, noi andavamo a ballare, alla ghiera, per tutto, altri che ci dì. E vabbè, cosa vuoi fare? Purtroppo c'è stata anche gente che si comportava male che ha anche pigliato colpi, eh. Non è che, adesso non ne abbiamo più voglia. Non ne abbiamo più voglia. Comunque, io ti dico la verità, ho preso questa apparecchio per la macchina, poi ne ho comprato un altro per casa, così non sto trasbordando. Avevo intenzione di comprare una stazione un po' decente come quella che ho avuto tempi addietro, no? Però alla fine gira gira, se non è solo per andare ad ascoltare un'altra frequenza, io ho la licenza d'ascolto, raggio 50 anni. Sto pensando che sicuramente buttare un po' di soldini non serve a niente, capito? Intanto poi alla fine, cioè siamo quattro gatti, non c'è mai nessuna frequenza. Io molte volte durante il giorno entro, cerco di guardare, chiamo, sarebbe per quest'ora, la sera a quest'ora, basta, boh, poi prima sul tardi, piena notte, facevamo tante cosette belle. Sì, invece c'erano tante signorine che ci facevano compagnia, andavamo a trovarle, a farci fare il caffè la notte nei paesi, ma l'avevamo fatto 2-3 ore, era una cosa molto bella. Mi aveva, tu non te lo ricorderai, io avevo passato un casino con una tizia pure, mi avevano accorpato anche il figlio di una tizia che modulava la frequenza, non ti dico altro, cosa ho dovuto passare io. Cioè succedeva di tutto, bastava che tu andassi a parlare durante la notte con una persona sposata, ma solo perché avevi molta amicizia, scherzavi, allora automaticamente eri ammantato. Per cui io sono uno di quelli che ha passato un casino a quei tempi, parlavo con 10, 20, 30 persone, c'erano le mogli degli amici, c'erano persone sole, ragazze sole, ma io avevo conosciuto un sacco di gente, e diciamo che e qualche giretto nel paese me l'avevo anche fatto, ecco, a quei tempi, erano i vicini, se fumavano un gabbo, oggi non c'è più niente, oggi no. Peccato però, perché vecchiaia, un'altra passeggiatura per i paesi me l'avrei fatta. Purtroppo i tempi vengono e passano, questo non ci sono dubbi, però è così. Sì, prima c'era più, sicuramente più caos, non ci sono dubbi, però c'era anche da divertirsi un po' di più, perché vivi. E sentendo certe situazioni e certe persone, mi ricordo che c'era qualcuno, magari qualche donna che si ubriacava la notte, alle 2 di notte si chiamava la gente dei paesi per portarsela a casa, sicché ti puoi immaginare, tu mi dirai, ma era una persona a scapola, tu già hai capito di che sto parlando. Certamente sì, ma non c'era solo quella, ce n'erano altri, con delle voci, e non so se erano truccate per farle sembrare sensuali o che, o perché effettivamente erano così, e sai anche di chi sto parlando, anche di quella, essendo tu un vecchio CB, per cui non c'è bisogno che ti spieghi e ti dica il nome di chi sto parlando. Erano situazioni non brutte, ma nemmeno molto belle, però attirava la gente, e allora era il periodo buono del baracchino e tu andavi in giro per la città e anche nei paesi limitrofi a Sassari, sollevavi la testa e sui tetti non vedevi altro che antenne di baracchino. Oggi invece no, oggi che sarebbe più giusto, visto considerato che oggi interferenze non se ne fanno più, oggi no, non ce ne sono di queste antenne, ne vedi una ogni tanto così, e se c'è qualcuna che magari è ancora esistente e magari è stata messa in stand-by, non è stata più utilizzata. Mentre prima invece, appena che ti vedevano solo salendo sul tetto per piazzarla, boom, c'era quel preciso momento, eri una persona che disturbavi, senza nemmeno cominciare a piazzare l'antenna, eri già adocchiato. purtroppo era così, e le situazioni cambiano, hanno cambiato moltissimo dagli anni passati a questi di adesso. Vabbè, pazienza, vediamo se è rientrato Gianfranco. No, Gianfranco ancora non è rientrato. È così, Bru, è così. Comunque tanta gente ce l'ha, io ho tante persone, tante vecchie CB che ho incontrato, gli ho detto perché non rientro? Oh, dice, ma non ci penso proprio, ma non ce l'hai? Ma sì, ho tutto, e la voglia, ho tutto conservato, e allora perché non lo usi? Però no, assolutamente, non c'entro più. E così è stato, non c'è più entrato. E uno di questi è anche Antonio, Antonio, non mi ricordo, quella persona educatissima, nel vero senso della parola, che adesso non mi ricordo, Venerdì, se mi ricordo, Antonio Venerdini, una cosa del genere, ti ricordi di Antonio? Bru? Sì, cazzo, Antonio Venerdì. Allora sai che sarà 7-8 anni fa, una decina di anni fa, stavo passando su al quadrato, vicino al campo della Torre, è passato questo tipo, perché era piccoletto, era particolare, no? Sai, con questo cane passeggiando, quando è passato, tanto, stai girando su di tu, ma non c'è Antonio, ci siamo visti dopo roba di 30 anni, con il contratto. E stavo dicendo, per tornare al discorso di quella persona lì che hai nominato, quella che aveva la voce sensuale era veramente, parlava veramente così, ed era una persona di una certa età, era una persona eccezionale, perché io l'avevo conosciuta, aveva un nome stretto, piccolino, di poche lettere. Mentre quell'altra persona che hai nominato prima, con quella la giovata a piedi a cavallo, quella veniva alle 4 del mattino a casa, aveva una macchina sportiva, lei avrà avuto allora 55 anni, avrà avuto allora, forse neanche 60, io avevo 18 20 anni, ma cosa ha avuto alle 4 del mattino sulla superstrada a 200 all'ora, Riaga Frasca, guidando lei, lascia perdere, a quell'età era così, andavamo a puzzo d'oro, a puzzo a sigarette, whisky, lascia perdere. E una volta abbiamo fatto una festa ad Alghero, che c'era il presidente, se tu ti ricordi chi era, presidente del club, quel tizio dell'Acci, se ti ricordi, c'era la buona anima di Renato Cocco e compagni, Antonio, c'era Perseo, Aldo Perseo, capisci a me chi era Perseo, e tutta la greffa, eravamo andati a ballare ad Alghero. Questa tipa si era ubriacata, ha fatto un casino la notte, ci avevamo dovuto bussare a Bran Segarone. Sì, per carità, già lo so, sì, che elemento era. Peccato che era la cognata di una persona che poi adesso ormai non c'è più, è deceduto. Ed era una persona molto in gamba, molto educata e gentile. Perché lei era la sorella appunto della moglie di questa persona. Pazienza, è andata così. Sì, certamente, poi non parliamo poi di altre cose che sono successe proprio a riguardo di certe persone, che qualcuno si è ammantato con la comare. Già tu già lo sai, non c'è bisogno che io faccia nomi, già di che sto parlando. E anche quello poi è andato in malora, il matrimonio sia suo che quello della comare stessa, per cui vabbè, lui era sicuramente un donnaiolo, uno tutto sommato un buon a nulla, se vogliamo, anche se poteva presentarsi e si presentava sempre in maniera elegante, ma era solo illusione, non è che era cattivo, però era troppo femminaggio, non era possibile che una persona sposata, un uomo grande, potesse comportarsi così. E poi la fine che ha fatto l'abbiamo subito saputo tutti. E tra l'altro era lì vicino dove abitava tuo cognato, buon'anima. Ma vabbè, per sé, io non so com'è per sé, la moglie. E non so quanto te, anche se tu lo sai più di me, già lo credo. Va bene, Bruno, e cosa vuoi che dica? Tempi che furono e che non ritornano più. Una canzone del mio fratello dice proprio queste frasi. Tempi che furono e non tornano più, tempi passati e non tornano più. Per dirlo chiaramente, come fa quelle poche frasi di quella canzone. Vabbè, dai, dimmi a proposito, Antonello mi aveva detto una volta che abitava dalle tue parti stesso, sto parlando di Norton, abitava lì dove abiti tu, di vicino, confermi? Abita dove abito io, lui abita sull'attico, di fronte, dai, io ce l'ho di fronte. Sì, ho capito che era una persona. Comunque la cosa è un attimo, sono andato. Sì, Antonello abita lì. Mentre invece Costanzo abita lì vicino dove tu lavoravi. Dove devo trovare il signore Antonello? Perché io sono sicuro che lui ha ancora il Comstat 25B. Io sono sicuro che lui ce l'ha ancora. Adesso stasera sto mettendo la cangaraggio, lui ha il garage di fronte al mio. Non tento se lo vedo. Poi ci frequentiamo comunque. Dunque, ci vediamo da spesso. Ok, prova ad accennarli di rientrare in frequenza, Antonello, soprattutto se gli è rimasto il baracchino. Aveva il 35B, aveva, non il 25, il 35, la versione dopo, cioè quello migliorato, diciamo. Era bello, un bel baracchino, me lo ricordo benissimo. Costanzo ce l'ha sicuro, so che ce l'ha un baracchino, perché l'ha ereditato dal suocero, e ha anche il microfono Turner più 3, sempre ereditato dal suocero. Io un giorno gli ho detto, perché non piazzi l'antenna, visto e considerato che tu lo puoi fare tranquillamente, anche perché abiti tu all'ultimo piano, hai l'attico, tutta roba tua, e sicché nessuno ti può impedire di piazzarti un'antenna. No, dice, non ci penso proprio. E piazzatela, ho detto, costa, piazzatela l'antenna, che così facciamo quattro chiacchiere. No, non ci penso proprio. E così è stato, non l'ha mai fatto. E penso che non lo farà mai. Non lo farà mai. Infatti gli avevo detto, allora vendimi allora il microfono. Allora, no, dice, è un ricordo di mio suocero. Sto parlando del suocero di Antonello, cioè di Costanzo, non di Antonello, di Costanzo. Già ti ricorderai chi era, che usciva magnificamente bene, con l'antenna autocostruita piazzata sulla ringhiera del poggiolo, del terrazzino lì, zona Sacro Cuore, così, tanto per farti un po' di memoria, ti ricordi chi era? E a voglia che me lo ricordo, ma avevo fatto la Gran Prima. Sì, caspita, se non lo ricordo. anche perché in quel periodo io frequentavo con loro, capito? Uscivamo assieme con Costanzo e Antonello. Ci frequentiamo poco, ma abitando vicino ci vediamo. Per cui diciamo che lui dovrebbe avere il Comstat 35, hai ragione, io avevo il 25B. Il Comstat 25B mi pare si chiamava il mio. Sì, ma poi io avevo dato la linea Iesi. Lasciamo perdere, l'avevo avuta da quel mio parente, già lo sai. Poi mi sono stufato, avevo il ricevitore e il trasmettitore FL50B ricevitore, e poi quando mi sono stufato era tutto buttato in cantina. Un giorno, quando sono trasferito di casa, ho visto questi scatoloni, ha giubilato, aiuto, tutta la topparco via, e sono aggiornato tutto. Microfono, l'usciure, io avevo l'usciure in quella parte chiusa, E poi niente, avevo deciso di smettere e basta. E te l'avrebbe detto che sarei rientrato in frequenza. Comunque adesso mi sono spostato e sono verso il monte. Sì, me ne sono accorto. Me ne sono accorto che ti sei allontanato. Certo, purtroppo succede così. Poi non è detto che uno debba per forza conservarsi certe cose se non li usa, perché conservare le cose e non usarle equivale a non averle. Poi magari col passare degli anni le viene di nuovo l'idea di fare certe attività e allora si ripensa, che stupido che sono stato, tra virgolette, se non avessi buttato oggi avrei potuto continuare e fare ancora quel genere di attività. Purtroppo succede così, succede un po' a tutti, senz'altro è così. Vabbè, pazienza, c'è sempre modo di rimediare. Uno apre il portafoglio, se lo ricompra e via, e si rimette in moto per così dire, no? Sì, altri tempi. Quanta acqua è passata sotto i ponti da allora? Del resto sono passati 49 anni che io sono lì in frequenza. E tu ancora prima c'eri già, non so da quanto tempo c'eri prima ancora, ma c'eri, altro che se c'eri. Tant'è vero, il primo che ho conosciuto, e tu sei uno dei primi, lo stesso che delle persone che avevano il malachino, ad aver conosciuto, ci siamo conosciuti tantissimi anni fa, ero un giovanotto anch'io. Giù. E tu eri un ragazzo, io ero già un giovanotto. Il primo che ho conosciuto è proprio Antonello Norton, perché avevo allora quando 5,8 watt che mi dava il Ponis e canali, un baracchino che avevo tenuto così per puro caso, per uno scambio che avevo fatto con un ragazzo che mi aveva chiesto se gli facevo le due cassette per l'altoparlante per andare poi nelle cantine a ballare, perché non avevano le cassette degli altoparlanti, e io gli ho fatto le cassettine e in cambio non aveva soldi, e allora mi ha dato questo baracchino da un po' nei sei canali, e da lì ho iniziato l'avventura in frequenza. Io allora avevo 30 anni avevo, l'altro giorno, in poche parole, no? È passato un po' di tempo e grazie a Dio siamo ancora qua. Avanti Blu. Sono passato sotto casa di un CB e ti ha coperto un panto, comunque più o meno il discorso lo si. Vabbè, comunque siamo qua, cercheremo di rimediare un pochettino, anche che la tira comunque già si muovendo. Ascolta, io approfitto adesso per ritirarmi, anche perché devo passare su un altro canale per vedere se trovo una persona. Comunque chiudo definitivamente, quindi faccio questa persona che gli devo comunicare una cosa e poi mi ritiro direttamente. Intanto sto arrivando a casa subito, metto la macchina in garage e stacco l'antenna. D'accordo, giù. Grazie della chiacchierata, mi ha fatto piacere anche ricordare qualche cosa. Vuol dire che ne avremo ancora di tempo, speriamo tanto per farci quattro chiacchiere. Nuovamente buona carica, ci sentiamo un altro giorno. Ciao giù. Ciao Lu, grazie a te dai per le quattro chiacchiere, è sempre un piacere di ascoltarti. Alle prossime, ciao Blu. Ok, ciao. Gianfranco, ci sei? Sì, Giulio, scusa, sono ripreso, ma mentre stavo lavorando ho rifatto anche la pizza e quindi l'ho dovuta far fuori subito, sennò diventa un copertone d'auto. Certo, hai fatto bene. Sì, ma ho immaginato qualcosa di importante, per cui va bene così. Sì, no, adesso stavo ascoltando sull'altro canale, ma niente di particolare. Questo è tutto un altro canale, Gianfra. Parliamo d'altro. Diciamo, tra virgolette, meno scemenze di quanto si indicano in un altro canale. Avanti, Gianfra. No, vabbè, bisogna sempre rispettare i discorsi degli altri, perché se no insomma, non è molto corretta la questione. Quindi il rispetto per tutti è sempre la prima cosa, quindi ognuno si rifletta, l'importante è che si rifletta, l'importante è che ci sia sempre un canale con le persone, in modo che più ce n'è meglio è, e più c'è scelta, così ognuno fa, trova il suo spazio, ecco. Ci sono discorsi impegnati, ci sono discorsi meno impegnati, ci sono discorsi per divertimento, cioè l'importante è che ci siano, poi tutto l'altro è relativo. Sì, ma no, ma sto generalizzando, è ovvio, no? Che anche qua ne diciamo anche noi, diciamo, no? Ma voglio dire, al momento ci sono delle cose che a me personalmente non mi interessano, tutto lì, intendevo dire quello. Poi chiaramente, poi se devo fare una selezione fra i canali che vengono occupati, al momento scelgo sempre 10. Scelgo sempre 10. Va bene, dai. Comunque, è sempre così, non cambia niente. È sempre la solita storia e ciccia. Bene, bene. E allora tu hai praticamente cenato? No, io ancora no. Anche se ho fatto merenda un po' tardi, ho mangiato una bella grossissima fetta di torta e non lo so fino a che punto stanotte ho voglia di cenare, la verità. Anche perché ho mangiato troppo tardi, che erano più delle 6, per cui qui si cena intorno alle 8 e non so che appetito posso avere fra un po'. Vedremo, dai. Vabbè, piano piano, poi anche mangiare poco è sempre un vantaggio, perché almeno diciamo ti tieni in forma, dai, giusto. quante cose. Comunque, vabbè, come diceva quello, sempre l'importante è la salute. A proposito, Giulio, non per ritornare tutto sul suo discorso, ma devo chiedere una cosa, giusto per saperla. Ma a te poi, dato, onestamente io pensavo che tu fossi molto più grande, invece mi hai detto che forse non hai neanche 75 anni, quindi sei ancora un giovinotto. I vaccini, cioè il vaccino, volevo dire, ti hanno chiamato per il vaccino? No, a me no, non mi hanno chiamato. No, ma io ne ho di più di 65, ne ho 79 ne ho. Io ho 79 anni, ho già, forse tu avevi capito male della mia età. Io ho 79 anni compiuti avanti ieri, e cioè il giorno 29, per cui ti puoi immaginare. Sì, proprio ieri ho chiesto al dottore come dovevo fare per il vaccino, e mi ha spiegato che per la patologia che ho io dovrebbero farmi Pfizer, però anche Moderna va bene, non è che non va bene. Mi ha detto chiedi al tuo medico di base, che sarà lui sicuramente a chiamarti per fare appunto il vaccino. Io ancora non l'ho fatto, non mi avevo fatto nemmeno la prenotazione da nessuna parte, perché prima volevo sentire il parere del medico che mi sta seguendo per la patologia che ho avuto io, che ancora ne ho un bel po', nel senso che dovrò continuare per sempre per precauzione, per cui va bene così. Io la faccio volentieri, a differenza di altre persone che dice, mi ha detto questo medico, tanta gente all'appuntamento poi non ci viene. Ha detto bella testa hanno quelli, e vabbè, vuol dire non si vogliono bene nemmeno loro stessi. Così è già fatto, ancora niente. Ah, ok, no, perché adesso sono arrivate tantissime dosi e mi hanno detto, perché anche stasera l'ha fatto mia sorella, e infatti gli hanno fatto proprio quello, Moderna, e piano piano stanno stanno, diciamo, recuperando, là. Fortunatamente si stanno dando una mossa. Quindi speriamo bene, magari che entro maggio probabilmente che arriveranno tante altre, arriveranno i rifornimenti, riusciremo un pochettino a farla tutti, così magari può darsi, forse potremmo ritornare a fare un pochino più tranquillità. Speriamo, siamo tutti fiduciosi sicuramente. E soprattutto impazienti di ritornare alla normalità, perché è giusto che sia così, che si ritorni alla normalità. Però la sensazione è che ancora questa storia dura per un bel po' di tempo, visto e considerato l'imprudenza che vedo in giro alla gente, nonostante il rosso, tutti quanti, tanta gente, ho visto senza la mascherina, anche punti di affollamento non indifferente, e così non va bene. Adesso vediamo un po', dai, con questa delibera che hanno fatto loro ad aprile, eccetera eccetera, speriamo che non si moltiplichi il contagio, e così almeno saremo sicuramente un po' tranquilli, più tranquilli perlomeno, non del tutto, però ancora bisogna essere sempre molto prudenti, usare sempre la mascherina, vedere dove mettiamo le mani per poi lavarseli, e così via, perché è importantissimo, se no la cosa non smetterà mai, se no speriamo bene. Gianfra, cosa vuoi che ti dica? Sicché tu hai fatto la moderna l'ha fatta anche mia sorella, l'ha fatta, effetti collaterali non ne hai avuto niente, no? Meglio così, sono contento, perlomeno mia sorella non ha avuto nessun effetto collaterale. Anche un amico l'ha fatto lo stesso, avanti ieri, gli hanno fatto AstraZeneca, anche lui non ha avuto nessun effetto collaterale. Poi, stavo leggendo le differenze fra un vaccino e l'altro, ma diciamo che più o meno tutti si equivalgono, non è che ci sia una sostanziale differenza. Poi si sa, ci possono essere dei casi che appunto si manifesta quello che si è manifestato in certe persone, quello dipende anche dal caso e soprattutto dal tipo del soggetto. Meglio fra. Sì, vabbè, per ogni cosa c'è anche il suo, cioè molte cose sono dettate anche dalla fortuna, quindi ci dobbiamo un po' affidare alla nostra, come dice, una stella, ecco. Però è così, anche questo fa parte della storia, dobbiamo essere contenti anche, anzi che a noi, alle nostre generazioni, già da molti anni è stata risparmiata la guerra che invece i nostri padri hanno dovuto subire. Questa, tra virgolette, è una guerra un pochettino diversa, però speriamo di poterci fare onore anche noi, ecco, tutto lì. No, io non l'ho fatto, Giulio, l'ho fatto mia sorella, ha capito. Io sto ancora aspettando, è per quello che ti ho fatto la domanda, Giulio, perché anch'io rientro in quella lista, nella lista, diciamo, per età a cui dovrebbe arrivare la comunicazione, ecco, tutto lì. Il mio medico ha detto che ha mandato tutto, quindi io aspetto ordinatamente il mio turno. Sì, anche a me mi ha detto praticamente la stessa cosa che stai dicendo tu, di rivolgermi a me, al mio medico di base, e poi lui manderà la comunicazione e mi dovrebbero chiamare. Dice, come regola, dice, ti dovrebbero chiamare e vaccinarti addirittura in ospedale, perché in quel caso lì è necessario la presenza di alcune specialità mediche, cioè di diversi settori della medicina. Non lo so, anche se dice non sei di una fragilità eccessiva, mi ha detto, però essendoci stato quello che c'è stato, che grazie a Dio sembra che adesso no, non ci sia più, speriamo bene, ed è per quello che sto continuando sempre a fare la terapia di prevenzione sistematicamente di 3 mesi in 3 mesi, come appunto loro mi hanno prescritto, e il tutto dovrebbe risultare ancora per un annetto, una cosa del genere, perché sono già passati 2 anni, sono passati, e proprio il giorno 30 ero lì a colloquio col dottore e mi ha detto vabbè, allora ripetiamo di nuovo tutte queste visite che sono state fatte sino ad oggi, ogni 3 mesi li facciamo, dice, e così teniamo tutto sotto osservazione. Ma al momento va tutto bene e speriamo che continui ad andare bene tutto lì, io già qua. Ok, dai, speriamo che vada tutto a posto, piano piano. Come diceva, diciamo, detto sassarese, mannaggia non mi viene, come fa la barca, fa paciccia, poi non so chi sia paciccia, ecco. Quando andare a vacca, andare a baciccia, così, oppure in cammino si accontano barrio, strada facendo ci adatteremo, cercheremo di essere più silenti, se no, come si fa se no, facciamo queste cose qua e andiamo avanti lo stesso, se Dio vuole. Tanto siamo nelle mani di qualcuno più potente di noi. Non possiamo ribellarci a nessunissima sua decisione, poi già fra. Ah, questo è poco ma sicuro. vabbè, anche perché molti chiedono perché ci siamo mandate quasi queste cose, però come dice il Papa, non è che il Signore ci vuole male, ma purtroppo siamo noi che ce le cerchiamo, e mi sa che anche in questo caso siamo noi che ce l'abbiamo cercata. E quindi, capito, non si può chiedere sempre che i nostri errori vengano rimediati dagli altri, li dobbiamo rimediare noi, anzi imparare soprattutto a rimediarli noi, perché ce n'è un altro che credo che sia Romano, aiutati e il Cielo aiuta. Quello sì, è vero, aiutati che Dio ti aiuta, in effetti è così. Sì, beh, certo, diciamo, soprattutto da noi dipende, perché se uno conduce magari una vita tranquilla, senza vizi, senza comportamenti assurdi, eccetera, perlomeno la regola dovrebbe essere quella, dovrebbe stare bene fin quando non sarà arrivato il momento. Però tantissime persone, devo dire, che se la creano la situazione avversa, pertanto a un certo punto non ti puoi assolutamente lamentare più di tanto. Però il discorso è sempre quello, è sempre una questione di fortuna, è sempre una questione che il destino di ogni essere umano è stato segnato dal primissimo momento che è venuto alla luce, e quello non lo può cambiare nessuno. E non a caso ce lo dimostra che magari uno può vivere anche 100 anni, mentre altri magari bambini, anche da poco, un bambino è nato dopo 5 ore morto, eppure è nato, sembrava tranquillo, che fosse nato bene, invece dopo 5 ore è morto. Questa è una notizia adesso recentissima. Va bene, dai, non fa niente, tiriamo a campare finché è possibile farlo. Quella è la vita, purtroppo tutti dalla nascita siamo nel momento in cui si viene al mondo, anche prima c'è sempre il rischio, e quindi come essere umano lo dobbiamo accettare. Comunque vabbè, a noi, io sono contento che adesso è andata bene, nonostante molte, molte volte, forse un po' troppo, sia stato insediato da quella signora, quella con la vesca di nero, con la falce. E per più di un pelo me la sono scampata, però sono contento comunque. Grandi spaventi, grandi cose, però insomma, ancora siamo qua, grazie a Dio. E io qui già fa. E poi è arrivata la chiamata per il lancio. Dunque ti devo lasciare. Mi dispiace non poter continuare ancora, ma a casa sono già a tavola, adesso devo scendere anch'io che mi hanno appena fatto squillare il telefono qui su, nel piano superiore. Va bene Gianfra, dai, scusa se non mi posso trattenere ancora. Ciao, alle prossime, ci sentiamo magari eventualmente domani, se coincide faremo un'altra chiacchieratina così, nel bene e nel male, se Dio vuole. Lui già è bravo e accontenta tutti. Ciao Gianfra, alle prossime, dai, ascolto il finalino e poi chiudo, ciao, grazie ancora. Grazie a te Giulio. Si passa il tempo tra un lavoretto e l'altro, questo apparecchio è diventato ormai una compagnia ed è bene che ci sia, ecco. Quindi è meglio così, dai. Buona cena Giulio, ci sentiamo alle prossime, magari se ti arriva questo benedetto apparecchio, se te lo riparano, ormai dovrebbe essere già vicino, facciamo anche qualche prova così, giusto per divertirci un po'. Ancora buona serata, alle prossime. Ok, già fa, volentieri, guarda, appena che arriva facciamo pure qualche prova. Nel frattempo ci possiamo collegare anche con l'amico Claudio, perché anche lui ha installato l'antenna, per cui stamattina l'ho sentito e mi ha fatto molto molto piacere. Sono contento che lui abbia rimesso l'antenna, così so a chi rivolgermi per chiedere i controlli, perché ripeto, senza dimenticare l'amicizia di nessuno, a me quando chiedo il controllo mi interessano i controlli con apparecchiature possibilmente professionali, perché è inutile che ti chieda un controllo che magari è un baracchino che non si sa se cade o pesce, e non mi serve niente un controllo dato da un baracchino, per cui faccio affidamento su apparecchiature professionali e soprattutto con gente un pochino più esperta. Grazie ancora, con rispetto per tutti chiaramente. Ciao Gioffa, grazie ancora, dai, chiudo per la cena come ho annunciato, ciao. Ciao Giulio, buona cena, alle prossime. Hola, hola. Hola chicos, attenzione, binario 10, K.